vento che soffi il tempo sopra noi. Fermati un poco a parlare con me, se vuoi. Dimmi se hai visto lei e come sta. Nessuno la conosce qui in città. Aveva gli occhi grandi ed i capelli giù. Se tu l'hai vista so che l'ami anche tu. Ma per cercare fortuna son venuto qua. Ed ora sono solo qui in città. Qua giù in città io non ci resisto più. La gente corre, non capisco dove va. Mentre io saprei dove correrei. Correrei da lei, ma è un mostro la città. Ti prende poi, più fuggire tu non vuoi. Mentre io saprei dove fuggire. I tram, le luci al neon le conosco ormai. Le piazze, le vetrine, la pubblicità. Ma io che amo i fiori, le farfalle e lei. Se resto ancora so che morirei. Qua giù in città io non ci resisto più. La gente corre, non capisco dove va. Mentre io saprei dove correrei. Correrei da lei, ma è un mostro la città. Ti prende poi, più fuggire tu non vuoi. Mentre io saprei dove fuggire. Qua giù in città io non ci resisto più. Qua giù in città io non ci resisto più.